Pronto? Allora? Mi senti adesso, Flavio? Sì, ci sono. Sì, ti sento. Allo, allo? Ti sento. Io ti sento, eh? Sei tu che non mi senti. Mi leggi? No, io ti sento, però mi sa che c'è un ritardo mostruoso. Sì? Sì, mi sa che c'è un ritardo notevole, mi sa. C'è un ritardo assurdo perché. Allora, guarda. Ok, io facciamo una cosa. Per non saperne leggere né scrivere, facciamo così. Dammi un secondo. Un secondo. Aspetta, hai il telefonino con te, puoi andare su WhatsApp. Ecco, pensa quanto tempo ci ha messo. Allora, aspetta. Hai il telefono con te? Hai il telefono con te? Sì. Hai il telefono con te? Mamma mia, pensa quanto tempo ci vuole. Ti chiamo. Sì. Ti chiamo. Se ti trovo qua, dove stai? Pronto. Flavio. Pronto? Mi senti? Mi senti? Pronto? Sì. Allo? Mi senti? Io Sì. Mi senti? ti sento. Allora, guarda, se tu facciamo una cosa, tu mi stai ascoltando dal telefono e io sto parlando anche dal microfono, per cui guarda il tempo in che ti arriva in ritardo la mia voce su Jamtaba. Io sto parlando. Flavio, ma cos'è? Sì, ti sento con un ritardo di 20 secondi. Ammazza! Giantaba l'ha detto adesso. Ah, ecco, perfetto. Tu ti senti tu? Sì, Prova a parlare tu, io. parla. Parla tu. Prova. Prova. Hai capito quanto tempo ci è voluto per dir prova? Hai capito quanto tempo ci è voluto per dir prova? Suonando in quella room, tu come Ma scusa, ma prima quando stavamo suonando in quella room, tu come cioè, sì, sembrava sincronizzato, tutti sì, però abbastanza infatti non capivo sincronizzati? perché ogni tanto perdeva la sincronizzazione, non capivo. Ma lo sai perché funziona? Perché tutti vanno a tempo, no? Ma lo sai perché funziona? C'hanno il metronomo Perché tutti davanti, vanno c'è a il metronomo tempo, e no? quello ti Col dà il tic. click del Capito, metronomo. però magari io sto qua a quattro battute prima. Ho capito, però magari io sto qua a quattro battute prima. Peccato perché comunque la chitarra si sentiva, penso, bene, no? Però allora non capisco se dipende da questa di distanza, magari c'è bisogna andare a prendere un'altra. C'è quel batte 98%, che cos'è? 56-32. Allora, in upload abbiamo 40 e in download 20, ecco, stanno lì. Aspetta che le...